Chi è l'uomo da nulla? Non certamente io, neppure tu. E certamente l'altro. Secondo il dizionario, l'uomo da nulla dovrebbe essere un uomo che non vale niente, un uomo inservibile. Dichiarando che un uomo non vale niente, che è inservibile, si dice tutto ma anche niente, e forse per questo oggi non sappiamo chi è precisamente un uomo da nulla. Senza pretendere di dire l'ultima parola, possiamo prendere in esame l'uomo da nulla nell'arte contemporanea. Ho letto tempo fa un'interessante panoramica sulla desolazione dello stato nella quale si trova l'arte contemporanea. Sembra che tutto sia cominciato nel 1917 con Marcel Duchamp, ritenuto il genio dadaista. Ha preso un orinale, apponendo su uno dei suoi lati la scritta Remut, lo ha ribattezzato Fontana e lo ha fatto diventare un'opera d'arte. Da lì è partita la deriva, che non si è più fermata. Che dire di Gerard? Gasiorowski, in arte Kiga, morto a 56 anni nel 1986, è passato alla storia dell'arte contemporanea? Poiché dipingeva meno, si fa per dire meno, mescolando i propri escrementi con delle piante aromatiche. E il giovanissimo videoartista svizzero Pipilotti Rist, che attraverso una camera a raggi infrarossi ficcata, in un water riprendeva chi vi sedeva sopra, mentre un altro artista espone il proprio letto dove ha dormito per una settimana in preda a una crisi depressiva causata da una separazione, un letto dove sono rimasti indumenti intimi sporchi, preservativi usati, tracce di urina, test di gravidanza e bottiglie di vodka. Un quadro del genere è stato venduto per 150.000 sterline. Queste creazioni artistiche si possono trovare nelle grandi gallerie o nei musei. E che dire dei film? I critici, riguardo a un film di David Lynch, si sono espressi nel modo seguente: non si capisce volutamente niente. È un sogno. Un sogno è un risveglio, un sogno doppio, un incubo. Oppure non è niente. In definitiva, è soltanto una carrellata di ritratti mostruosi, macabri e violenti, senza nessun filo conduttore. Queste espressioni artistiche, che dovrebbero essere il riflesso dell'intelligenza dell'uomo, mi dicono che ormai la società si nutre di ciò che non vale nulla, di ciò che è inservibile. Questo avviene perché chi non si rivolge a cose utili ed edificanti, irrimediabilmente si rivolge alla nullità. E dato che ognuno di noi si identifica sempre più con ciò che ama e con ciò che fa parte della sua vita, chi si occupa di nulla o di cose insensate, diventa egli stesso un uomo da nulla o insensato. Perciò, stando così le cose, l'uomo da nulla non è poi così raro. Come considera la parola di Dio l'uomo da nulla? P.R. 6 e 12. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra. Se chi è dedito alle cose vane, se chi si rivolge a ciò che non edifica, o chi è insensato viene considerato un uomo da nulla, quanto più lo sarà colui che ha un parlare non corrispondente alla verità. Purtroppo abbiamo sottovalutato chi dice menzogne o vive di menzogne. Per questo la società corre dietro a favole o idealismi sciocchi. Fanno parte di questa categoria tutti gli spettacoli osceni o sboccati, come libri o letterature che servono solo per accendere una fantasia malata o concupiscente. Una società che si nutre di fantasie, come può migliorare ed essere di aiuto alla futura generazione? Una società che si nutre di menzogne, come sirene, centauri, streghe e folletti. Vari tipi di orrore, di svariati e strani animali preistorici, per quanto in tutto questo sono presenti. Alcune verità. Come può valere qualcosa una società che spende miliardi per una delle scienze moderne chiamata ufologia, che pur essendo stata smentita da alcuni autorevoli e seri scienziati che ne hanno illustrato la ragione scatenante, continua a essere voluta dalla gente e quindi nutrita da chi ha interesse economico in essa? Che vi siano delle menzogne in queste cose che sono evidentemente false, si può portare anche pazienza, ma quando la menzogna circola negli ambienti più impensati e ritenuti i più seri, la faccenda si fa sempre più grave. Ho letto sulla copia dell'agosto 2005 della rivista Selezione che un terzo degli scienziati imbroglia. L'ho scoperto un'inchiesta americana, National Institutes of American Health, sottoponendo un questionario a 3.600 studiosi che avevano ricevuto finanziamenti per le proprie ricerche. Ebbene, è risultato che il 33% di loro si era comportato in modo professionalmente scorretto pur di meritarsi i soldi. In particolare, il 6% non ha pubblicato dati in contrasto con i propri, il 15,3% non ha utilizzato tutti i dati disponibili per dimostrare le proprie tesi, ma ha selezionato solo quelli più opportuni. Il 15,5% ha cambiato metodologia di ricerca per accontentare i finanziatori. Fra gli altri abusi, l'uso del lavoro degli altri senza dirlo e l'aver falsificato e inventato i propri dati, per fortuna lo fa solo il 0,3%. Senza togliere nulla di ciò che è dovuto, non sono questi scienziati uomini da nulla? Coloro che fanno spettacolo osceno, coloro che scrivono libri stupidi e che si occupano di arte insensata non sono persone da nulla, anche se possono avere dei meriti umani? Se l'uomo che dice il falso, se colui che si occupa di cose vane non sono uomini da nulla, chi è allora l'uomo da nulla? Un'identificazione bisogna pur farla, e se queste persone che dichiarano il falso e fanno della menzogna il loro mestiere non sono uomini da nulla, allora l'uomo da nulla deve essere veramente inquietante. È difficile trovare qualcosa più inutile di una menzogna, perciò la parola di Dio dice il vero quando afferma che l'uomo da nulla cammina con la falsità sulle labbra. L'uomo da nulla è talmente insignificante che non a caso la parola di Dio lo vede come il dolore di un genitore. PR 17:21. Chi genera uno stolto ne avrà dolore, e il padre dell'uomo da nulla non avrà gioia. Viviamo in un'epoca dove il valore del ruolo dei genitori è ritenuto molto scarso, se non da poco e niente. Il genitore per un figlio ha sempre rappresentato un punto fermo. Il giovane ha sempre considerato l'età adulta una meta da raggiungere per avere più sicurezza e risposte alla vita. Ma i giovani di oggi non considerano affatto l'opinione dei loro genitori. Mentre anni fa diventare adulto significava ricevere risposte ai propri dubbi, purtroppo per i giovani di oggi diventare adulti significa mettere in dubbio le risposte, perché essi non costruiscono più sull'esperienza dei genitori. È vero che i genitori non hanno sempre ragione, ma non possono per questo avere completamente torto. Anche il diavolo, mentendo ad Eva, ha detto una mezza verità. Perciò, un giovane che ignora completamente l'opinione dei genitori è destinato a diventare un uomo da nulla. Ho presente la mia l'esperienza sul lavoro. Quando in ditta entrava a lavorare un giovane che non conosceva il mestiere, veniva affidato alle mie cure perché potessi insegnargli i primi rudimentali elementi del lavoro. Ho incontrato dei giovani che spesso non svolgevano il lavoro esattamente come insegnavo e di loro propria iniziativa ideavano nuovi metodi, sbagliando di conseguenza il più delle volte. Poiché la responsabilità del lavoro era mia, con un certo sdegno li rimproveravo dicendo: «Perché non ha svolto il lavoro come ti ho insegnato? Posso capire che tu lo hai fatto perché pensi che sia una virtù avere nuove iniziative, questo potrebbe anche essere vero, però se tu non svolgi il lavoro esattamente come ti ho insegnato, quando sbagli commetti non un solo errore ma tre. Hai sbagliato il lavoro, hai commesso l'errore di non ascoltarmi e non sai come rimediare non essendo pratico del mestiere. Se tu invece mi ascolti e svolgi il lavoro esattamente come ti ho insegnato, impari un metodo che in seguito, se lo ritieni opportuno, potrai anche cambiare, con una differenza però, che se sbagli sai come rimediare. Così è dei giovani di oggi. Un giovane che non ascolta i consigli dei genitori rimane ignorante e diventa un uomo da nulla perché sarà costretto a non sapere come comportarsi nella vita. Se un uomo da nulla non vale niente o è un inservibile, allora lo è. Principalmente un giovane che non ascolta chi è più esperto nella vita come il genitore e mette sempre in dubbio ogni risposta. Dall'uomo da nulla il credente deve imparare almeno due lezioni. A. Non può essere aiutato. Proverbi 30:21. Per tre cose la terra trema, anzi per quattro che non può sopportare. Per un servo quando diventa re, per un uomo da nulla quando ha pane a sazietà, per una donna mai chiesta quando giunge a maritarsi e per una serva quando diventa erede. Essa parla dell'esistenza umana dal concepimento a dopo la morte, considerando tutto con schiettezza. Perché l'uomo non si illuda. In merito ai bisognosi, Dio ordina ai suoi figli di occuparsene. Ma in merito agli uomini, da nulla si premura di ricordare che la terra trema quando uno di loro ha tutto ciò che desidera. Perciò, dato che l'uomo da nulla è fra quelli votati alla necessità, è saggio non occuparsene neppure nel caso si trovasse nella penuria. Questo è conforme anche ad una certa giustizia, perché se l'uomo da nulla è principalmente uno che non dice la verità, che si occupa di cose vane e non ascolta chi è più saggio di lui, è ovvio che alla fine si trovi nel bisogno. E impedirgli di trovarsi nelle necessità è un danno per lui e per la società. Chi ha posto fede in Cristo è chiamato ad occuparsi dei poveri e dei bisognosi, ma compiere del bene al prossimo non è un atto da compiersi senza usare del discernimento nel dirigere le proprie risorse secondo la volontà di Dio. B. Il credente deve ricordarsi della coerenza. Proverbi 17:7. Un parlare solenne non si addice all'uomo da nulla. Un uomo da nulla che non è affidabile nelle sue parole non può avere un parlare serio e assennato, perché ciò che dice non è conforme alle sue azioni. In definitiva, quando si sentono le parole e si considera l'opera dell'uomo da nulla, è bene non prestarvi attenzione, perché non corrispondono al vero. Avendo spontaneamente un tale atteggiamento nei confronti dell'uomo da nulla, il credente si interrogerà pure sulla coerenza del proprio parlare, controllando che esso sia coerente con le proprie azioni. Altrimenti anch'egli rischia di non essere ascoltato in ciò che dice. Non serve a molto parlare delle cose di Dio quando il cammino non è conforme al volere di Cristo. Come credenti, occorre quindi non solo essere corretti nel parlare, ma anche vivere coerentemente con ciò che si afferma, diversamente si è degli uomini da nulla. E nessuno, credo, vorrebbe esserlo. Dicembre 2006. Ellero.